noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Yo creo que España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y que se quiere ir de casa. Cataluña ahora mismo se siente que es tratada de una manera que no se acerca a la realidad, que no se acerca a la vida real. Entonces, España tiene dos opciones, o sentarse como haría un padre y dialogar, o quizá ese hijo se te va. Pero es que es así, estamos en esta situación, entonces yo creo que no pierde nada en sentarse y hablar. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española. Porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. El catalán no está en contra de España, el catalán que quiere la secesión. Hay muchos catalanes que simplemente quieren ser independentistas porque quieren tener su propio país. Al final, aquí somos un grupo de gente que lo que intentamos es ganar para que España pueda ganar. Nada más. Per ragioni di coerenza, ma non solo, mentre saluto Giorgio Zucca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, e Marco Perinazzo, professore che da Sole 24 Ore è sceso fino agli inferi da noi. Buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Dicevo, per ragioni di coerenza, ma non solo, perché l'argomento mi interessa particolarmente, mi intriga, non so se anche voi, 800240024, riparto dal coito interrotto di ieri con Filippo Maria Ricci, collegato dalla Spagna. Ciao Phil. Ciao cari, buongiorno. Siamo a Malaga, sta arrivando proprio in questo momento la nazionale con tra applausi e qualche fischio per Piquet. Sì, ecco, da questo voglio ripartire. Abbiamo sentito prima un brano della conferenza stampa di Piquet e io dico subito che sono d'accordo con quanto ha scritto Filippo Maria Ricci sulla Gazzetta dello Sport di oggi, pagina 19, sotto il titolo Piquet, l'indipendentista spagnolo, perché... chiedo opinione anche a Marco Perinazzo, così non si fa. Riassumo, Filippo. Allora, fai la bandiera dell'indipendentismo catalano. Sto vedendo anche io le immagini della nazionale che arriva, le immagini del posto in cui tu ti trovi, cioè Valencia. Allora, fai la bandiera dell'indipendentismo catalano e poi dice però alla nazionale, scusate, non rinuncio. E allora, o da una parte o dall'altra, questa è la mia idea, la maglia del re io non la metto più, tanto più che con questa maglia ho vinto tutto quello che c'era da vincere. Ho la mia età, voglio esprimere il mio pensiero ed essere coerente con il mio pensiero. Questo è ciò che penso. Marco? Sottoscrivo in pieno, soprattutto... un momento in cui il calcio entra così prepotentemente anche in vicende di cronaca, è sempre stato il Barcellona un elemento dell'indipendentismo catalano nella sua storia, abbiamo tanti esempi, insomma Filippo ce li può raccontare, ma appunto in questi giorni Piqué è stato l'emblema di questo processo, diciamo, democratico di voto e quindi di conseguenza avrebbe dovuto, a mio avviso, rinunciare a questa partita, tanto più che lo stesso Barcellona con le altre squadre catalane, esatto, si è fermato per lo sciopero generale, insomma, per protestare contro le violenze subite dai catalani, quindi mi sarei aspettato un comportamento di questo tipo, non almeno, insomma, non ritirarsi completamente dalla nazionale, ma almeno non giocare in queste partite in attesa che si chiarisca la situazione, sì, dare un segnale forte. Dal punto di vista della convenienza, però evidentemente Piqué avrà fatto due conti, Filippo. Esatto, io è quello che ho scritto oggi. A me sembra che questo ragazzo vi dice perché i calciatori non lo possono fare, lui lo fa, giustamente, però certo. Poi bisogna parlare, bisogna anche avere un po' le spalle sufficientemente larghe per parlare di politica, perché ieri quando poi uno gli dice ma scusa, ma lunedì magari c'è l'indipendenza, tu con chi giocheresti? No, ma io penso alla partita di venerdì, cioè torna improvvisamente ad essere calciatore, oppure dice no, non è il mio caso, dice un indipendentista può giocare con la nazionale, non è il mio caso, poi gli dicono ah, ma allora tu sei per l'indipendenza o no? Non ve lo posso dire perché sennò perdo i follower. E come hai appena detto che non era il tuo caso? Cioè è molto paraculo, se mi si passa il termine. Paraculo è la parola perfetta. L'ho usato anche sulla Gazzetta, è un gran paraculo, perché voglio dire, e poi dice fa il politico quando vuole, poi dice ah ma il discorso del re giocava a carte, ma per favore, cioè, la Spagna è di fronte a una situazione incredibile, io vivo qua da 11 anni, qua siamo a un passo dalla guerra civile, non è un'esagerazione, quelli vogliono l'indipendenza e cioè, il presidente del governo catalano ha detto che lunedì proclama l'indipendenza. E lui dice no, io penso alla partita di venerdì, cioè, dall'altra parte c'hai il governo che vuole mantenere l'ordine, vuole mantenere il paese intatto e quindi è pronto a far scattare l'articolo 155 che non è che limita, diciamo proibisce l'indipendenza, no, toglie l'autonomia alla Catalogna che l'ha sempre avuta. E dico questa è la situazione del paese e lui mi viene a dire no ma è tutto a posto, insomma dice io voglio parlare di politica però poi non ne parlo, a me è sembrato un po' un bambino viziato su tante cose. Allora apprezziamo chi si espone, no? Perché è inutile far finta di niente, ah, no non lo so, non so nulla del mondo che mi circonda, apprezziamo chi si espone, però se uno si espone, decide di esporsi e ha questo tipo di coraggio che noi apprezziamo tutti quanti, e beh allora deve essere coerente con le sue idee. Io vi faccio la domanda del bar, la faccio a Brinazzo sul piano dal punto di vista economico, a Filippo Maria Ricci dal punto di vista calcistico, pseudo calcistico. La domanda che si fanno al bar gli italiani per quanto riguarda questa questione dal lato sportivo è: ma il Barcellona va via dal campionato spagnolo, che succederebbe? Che succederà? Forse usiamo il tempo futuro, Filippo. Ah, prima io. Allora, a me è anche questo, guarda, il Barcellona si comporta in maniera simile a Piqué, perché il Barcellona ha detto per prima, proprio a me, noi poi decideremo dove giocare e chiederemo ai nostri soci dove vogliono giocare. A me mi sembra che il problema sia un altro, vuol dire, bisogna anche vedere dove li lasciano giocare, dove possono giocare, perché come la Catalogna indipendente... Scusa, ma questa a me sembra una sciocchezza, mi sembra un'enorme sciocchezza. È chiaro che il Barcellona non uscirà dalla Liga, è chiaro che la Liga non può permettersi di vivere senza Barcellona, no Marco? Assolutamente no, però è evidente che siamo di fronte a una situazione molto molto critica e molto molto grave che aprirebbe tutta una serie di altre problematiche. Ma cosa può fare problematiche? Praticamente il Barcellona? Può decidere in quale campionato giocare? Vado a fare un giro in Italia? Faccio una stagione in Serie A? In teoria diventerebbe una squadra della Catalogna e in quanto tale che cerca casa o clochard. Ci sono casi che sono molto meno eclatanti ma non per questo non importanti come precedenti, pensiamo al Monaco. È una squadra del Principato di Monaco che gioca nella Liga e pensiamo a quanti problemi per esempio questo ha causato sul piano fiscale, no? Certo. Tanto che ha dovuto pagare una tassa di 50 milioni per poter iscriversi alla Liga, quindi non ci sono casi diciamo così impensabili, quelli di squadre di diverse nazionali, il rugby per esempio con la Pro 14 ci sono squadre italiane, gallesi, sudafricane. Diciamo che sarebbe, voglio dire, una fortissima spinta verso la Superlega o la creazione di qualcosa di sovranazionale a questo punto che metta insieme tanti club ricchi, anzi pochi club ricchissimi che ci sono e qualche altro club. È evidente che si creerebbe però un vulnus incredibile sul piano politico ma anche di politica sportiva, chiaramente. Certo, e quindi il Barcellona può fare il masaniello pro domo sua per promuovere una Superlega, no Filippo? Insomma, adesso stiamo facendo della fantascienza calcistica. Il Barcellona non uscirà dalla Liga e la Liga non lascerà uscire il Barcellona. Sì, però dipende, Carlo, perché il presidente della Liga ha detto, ripetuto varie volte che il Barcellona, se c'è l'indipendenza, in Liga non può giocare. Poi è chiaro che va contro i suoi interessi, però io questa situazione qua io la voglio vedere già sabato prossimo, sabato 16, che numero è? C'è Atletico Madrid e Barcellona. Già intanto ai tifosi di Barcellona non gli hanno dato i biglietti, dice ma un disguido, non si capisce bene, comunque l'hanno mascherata. E c'è un problema di sicurezza. Se il Barcellona è indipendente, se c'è l'esercito in Catalogna, non è che poi la squadra viene a giocare, ci sono problemi di ordine pubblico, di sicurezza, e la situazione si sta complicando in maniera diciamo evidente, per cui la Liga tra virgolette è la cosa che interessa meno, per cui anch'io pensavo come te, non può esserci diciamo la vita senza il classico. Però invece non ne sono più così convinto, Carlo, perché se andiamo avanti, se scende in campo l'esercito, altro che classico. Vabbè, questo è chiaro. Ne si può pensare che si giochino tutte le partite del Barcellona ovunque, a porte chiuse, come è stato con la prima partita. Non ha senso, no? Il classico è a dicembre, giusto? Due giorni prima di Natale, sì, se non ricordo. Sì, 23 dicembre il classico. Però ti dico, vediamo già cosa succede sabato prossimo, vediamo cosa succede lunedì, perché sai, lunedì questi hanno detto vogliono avviare, c'è una riunione plenaria del Parlamento catalano, se si va avanti con la dichiarazione unilaterale di indipendenza, dopo, non lo so, insomma, il calcio passa a un livello secondario, ed è per questo che io ieri, diciamo, non mi è piaciuto Piqué, perché insomma il problema è il momento sociale, il momento storico del paese, è incredibile. Altro che il calcio. Ma chiaro. Non di solo i moduletti 3-5-2 vive lo sportivo. Questi sono discorsi estremamente affascinanti e interessanti. Filippo, ti ringrazio, ti lascio lavorare. Ne avrai, mio caro. Alla prossima. Dicevi, Marco? No, dicevo che è vero che il calcio, diciamo, passa in secondo piano come questione proprio pratica di partito, orari, programmi e calendari. Però il calcio non ha avuto non è stato un fattore secondario, voglio dire, non è stato un fattore determinante, ma non secondario in questo processo, perché Barcellona, pensiamo a Guardiola, certi discorsi che Guardiola ha fatto proprio in sede politica a favore della Catalogna, e in generale al ruolo che il Barcellona ha avuto quando è stato eletto questo Parlamento con questo presidente della Catalogna, che hanno vinto su un programma elettorale basato su questo, in cui dichiaravano che entro 18 mesi avrebbero voluto l'indipendenza. Il Barcellona è stato il primo, diciamo, a congratularsi pubblicamente, a sposare questa causa. Ora chiaramente tiene un atteggiamento più cauto, ed è giusto così, visto che veramente ci sono stati poi tanti feriti e si sta andando oltre la politica. Però è evidente che Barcellona e il calcio non hanno un ruolo secondario in tutto questo processo. Il Barcellona è sempre stato una bandiera di questa cosa qui, e quindi adesso non vorrei che facessero come Piqué, no? Va bene, abbiamo la bandiera catalana tatuata sul cuore, però diamo però un occhio anche al conto corrente, no? Allora, ci fermiamo un attimo per il traffico, 800240024, poi arriva Pardo via telefono e poi interroghiamo Marco Bellinazzo su alcuni argomenti, tipo cessione del Genoa, a che punto stiamo, tipo il Milan con il proprietario, insomma il signor... Vediamo, che chiede soci di minoranza. Cioè quello che vogliono tutti: mettete i soldi, comprate il 25%, aiutatemi, io liquido la banca americana. Ricordo e poi... che Berlusconi un po' faceva questo. Ma va, davvero? e poi però non comandate, ok? Poi parleremo di diritti TV, insomma state con noi. Subito dopo l'intervallo la lotta continua! Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Tutti convocati. Eccolo Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Com'è l'audio? Bene. Non ti muovere, stai fermo, non ti muovere, non ti muovere. Telefono nuovo, qualità, telefono nuovo, nuove tecnologie. Non facciamo pubblicità neanche troppo occulta. Allora, volevo qui, c'è il professor dottor Inge Granlupman, Marco Bellinazzo, sono 24 ore. Volevo chiudere un attimo il discorso che abbiamo affrontato con Ricci dopo così i singhiozzi di ieri. Volevo chiudere il discorso sul calcio politico, indipendentismo catalano, dalla Spagna, Piqué e quant'altro, con un altro casus belli, mettiamola così, citato peraltro nei Padroni del Calcio, tuo libro. Beh, io ho parlato tanto di Siria, delle nazionali siriane, perché c'è la nazionale siriana, quella di Assad, quella di cui tutti parlano in questi giorni, che oggi si giocherà una partita importante, Siria-Australia. Se dovesse vincere questo playoff, poi potrebbe sfidare la quarta del nordamericano e addirittura approdare ai mondiali russi. Però per capire poi questi fenomeni bisogna appunto studiare la geopolitica, il calcio ci impone anche questo, è molto singolare, mi ha fatto molto sorridere il fatto che nella partita decisiva la Siria abbia conquistato appunto il diritto di giocare questo playoff contro l'Iran e ha pareggiato il 2-2 al 93esimo. Ebbene, nello scacchiere geopolitico dell'area, proprio l'Iran e la Russia, dove si giocherà il mondiale, sono i principali alleati di Assad, quelli che l'hanno tenuto in piedi. Voglio dire, se uno avesse pensato male, avesse voluto scommettere, diciamo, sull'X2 di quell'Iran-Siria, come dire, conoscendo o avendo letto i veri padroni del calcio, così ci facciamo un po' di pubblicità, avrebbe potuto scommettere occulta. L'X2, insomma, ora, vabbè, non roviniamo il calcio con questi retropensieri, Pardo, giusto? Non ci dimentichiamo quello che è successo l'anno scorso, vi ricordate alla vigilia dell'ultima giornata? Che si diceva che l'Empoli non avrebbe mai avuto problemi, perché conveniva anche al Palermo che l'Empoli si salvasse. Ecco, è successo il contrario. Cioè, io sono italiano, italianissimo, e come tutti gli italiani sono malizioso, malpensante, perché siamo tutti figli di questa cultura, da Machiavelli in poi. Che è anche un po' figli di, lo sappiamo. Sì, noi italiani, perché non ci batte battute, quasi nessuno. Sì. No, ma siamo abituati a pensare male, e questa cosa qui, sai, l'altro giorno è andato in scena da Floris questo dibattito su se siano meglio i politici incapaci o i politici corrotti, una sorta di derby da 0-0, e la speranza ovviamente è che i politici siano prima di tutto onesti e poi anche capaci. Ma insomma, siamo abituati a pensare male, no? Uh-huh. E poi tante volte invece la realtà ci sorprende ed è migliore di come la immaginiamo, quindi il caso, oggi però è una partita importante, perché insomma il calcio mette dentro tutto, è chiaro, quindi anche, è chiaro, è anche i problemi politici, anche il terrorismo, anche questo tipo di vicende. Il calcio in qualche modo le assorbe, le abbraccia. È per questo che apprezziamo chi si espone, però come abbiamo detto, però devi esporti fino in fondo e devi far seguire i fatti alle parole. Senti, Piqué è libero di fare quello che gli... Scusa, su Piqué, io fammi dire una cosa. È libero di fare quello che gli pare, perché noi non siamo catalani, non siamo spagnoli e non siamo Piqué. Quindi lui fa quello che vuole. È chiaro che un apparente controsenso c'è, però è anche vero che stiamo parlando di uno che con la Spagna ha vinto tutto, appunto, che ha dei compagni di squadra, degli amici. Non è semplicissimo andare lì a dire... Io credo, l'idea che mi sono fatto della situazione spagnola è che nelle ultime settimane si sia radicalizzato da una parte e dall'altra un confronto abbastanza ridicolo, secondo me. Certo. Ferme restando le ambizioni di sovranità delle singole parti della Spagna, però abbastanza ridicolo. Il problema è stato che si è accelerato questo processo di dialettica, di radicalizzazione, sì, ma questo è evidente. Perché poi in realtà io sono abbastanza convinto, magari se si va a votare in un referendum vero, sapendo che se vince il sì la Catalogna diventa altro dalla Spagna, magari vince comunque il sì. Ma sono abbastanza convinto, per i sondaggi che ho letto e per il tipo di situazione, che un conto è votare così in nome di un amore, di un'idea, un nome è votare quando poi hai le cose sul tavolo. E un conto è votare invece razionalmente, sapendo che poi se vince il sì tu non puoi Esatto. Allora io però volterei pagina, perché abbiamo pochi minuti e molte altre cose da affrontare, e andrei sulla storia Milan, che non c'entra nulla con la Spagna, però c'entra con anche recente passato, dicevamo prima. Jürgen Klopp dice: va bene, metto sul mercato 25% del Milan, quota di minoranza, mi date i quattrini e poi tanto comando io. Questa l'ho già sentita, Berinazzo. Sì, l'abbiamo già sentita, e fa parte di un passato che speravamo dimenticato, come si dice in questi casi, ma è chiaro che il Milan doveva affrontare i nodi, poi sarebbero venuti a pettine dopo la faraonica campagna acquisti. C'è un percorso che Milan si era proposto di fare, cioè un processo con la UEFA per avere il voluntary agreement. Chiaramente i risultati non mettono la società nella migliore condizione per andare a trattare con la UEFA, né per andare sul mercato e cercare soci, altri finanziatori, o per rivedere quello che è l'assetto del debito con Elliott. La scadenza la conosciamo, l'ha ricordata più volte allo stesso Fassone, per cui diciamo è complicato in questo momento per Lyon cercare degli acquirenti su un progetto che anche sportivamente è claudicante, però la clausola di salvaguardia, diciamo così, resta il fondo Elliott, che se non dovessero essere onorati i crediti che vanta nei confronti del Milan e della società di Jürgen Klopp, ecco. Ma correggimi se sbaglio, non è un grande segnale questo, o è un'impressione mia? Era inevitabile, lo abbiamo raccontato, era nelle premesse di quello che è accaduto. Cioè, se tu fai un'operazione di 800 milioni e ne metti 300 di tuo, il resto a debito, è evidente che se le cose vanno bene ti metti nelle condizioni di ripagarlo su quel debito, altrimenti vai in difficoltà, e quindi il mercato in qualche modo ti chiede, punto di vista, ti chiede il conto. Il Milan ha avuto dal punto di vista della comunicazione una sua coerenza, cioè da questo punto di vista non si sono mai nascosti. L'altro giorno eravamo a Firenze, io e il professor Berinazzo, e eravamo lì a interloquire con Passone, che era collegato a Milano, e, uh-huh, e lui ci ha detto che praticamente c'è un piano B. Chiaramente questo piano B non è un piano bello come il piano A, ma insomma, se il Milan non dovesse andare in Champions non è che muore il Milan. Sicuramente qualche sacrificio ci sarà. Ora quello che sta emergendo nelle ultime ore è che lo ma sono cose che sappiamo, sì sì, no, ma per carità, non c'è niente di non c'è niente di occulto. Avete fatto quest'anno un gigantesco all-in, uh-huh, abbiamo detto un milione di volte, abbiamo detto un milione di volte, quindi poi insomma, no, infatti poi va dato atto. Io non penso che nella peggiore delle ipotesi il Milan possa fallire, semmai no, dovrà fare dei sacrifici più grossi, più robusti, troverà qualcun altro, cioè alla fine si riparte sempre. Sì, si no, riparte. Infatti, da qualsiasi tragedia si riparte, soprattutto se hai un brand. Questo, questo è evidente. Ragazzi, però fatemi fare il signor Noel notaio, perché voglio fare un altro passaggio. Non c'entra nulla con il Milan, non c'entra nulla con la Catalogna, però c'entra con il rosso-blu del Genoa, visto che tra poco devo congedare Marco Bellinazzo. Allora, la cessione del Genoa, a che punto stiamo? Perché io ho perso il filo, sinceramente. Beh, praticamente quella trattativa è fallita, laddove c'era stata un'offerta che era arrivata a 130 milioni. Il problema vero credo sia stato individuare e capire l'entità del debito che in questo momento ha il Genoa, per capire poi quanti soldi sarebbero andati a Preziosi. Su questo evidentemente le parti non si sono messe d'accordo, al di là di quello che poi hanno dichiarato, per cui per il momento si è congelata, anche se Preziosi vuole cercare un acquirente. Il problema è che la situazione del Genova non è molto florida dal punto di vista economico, e ci sono problemi proprio nella gestione delle spese correnti, per cui vediamo quello che succede nei prossimi mesi. Idee? Secondo te, previsioni sul futuro? Idea, il problema è che evidentemente chi ha guardato i conti del Genoa, o quel poco che è riuscito a vedere, non è stato così, come dire, entusiasta di acquistare quel club a quella somma, o perlomeno al prezzo che chiede Preziosi. Di conseguenza o arriva qualcuno che accontenta Preziosi, oppure le cose possono anche precipitare. Non lo auguriamo certo ai tanti tifosi del Grifone. Marco, io ti ringrazio. Bene. Alla prossima. Grazie a voi, a presto. Alla prossima, ti lascio ai tuoi impegni. Io chiedo un attimo di pazienza a Stefano da Verona e Dario da Vicenza. Di pazienza non ho avuta fin troppa. Sentiamo insieme la borsa e poi certamente parliamo con loro. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ovviamente manteniamo tutte le promesse, ogni promessa è un debito. Io per Luigi Pardo. Stefano, buongiorno. Sì, grazie per l'attesa. Buongiorno. Sì, nessun problema, grazie a voi. Innanzitutto vi hanno fatto complimenti perché siete molto bravi e per nulla fazioni, quindi questo è solo un merito che bisogna attribuirvi. Grazie. Io non ero d'accordo su una sola cosa, però. E si è detto che il Torino contro il Verona domenica ha perso due punti per colpa della VAR. Però il primo gol, insomma, è tutto da chiarire che fosse fuori gioco, no, perché la VAR sembra abbia detto che fosse regolare. Era il 2-1 per il Torino, tanto il Verona ha fatto un'altra gol, quindi era tutto da vedere se il Torino ha perso colpa della VAR. No, Stefano, allora no, ma il discorso, la consecutio temporis è chiara, però mi sembra che si sia dimostrato che quel gol era irregolare. Poi è chiaro che era il gol del 2-1, poi c'è stato il rigore, c'è stato un grandissimo casino su quel campo, no, Pierluigi. Quindi non ha perso due punti per colpa, però insomma. Questi sono i fatti. L'amico non leggerlo, che ormai è una star internazionale, che tra l'altro magari ci sta anche ascoltando, ha detto: però si parla solo, che è interista, si parla solo del possibile rigore del 2-0 di Roma Inter. Cioè, poi è ovvio che esiste, poi l'Inter è stata brava in quella circostanza per dirti a rimettere in piedi la partita, e non c'è dubbio che se il Torino non avesse subito il secondo gol, poi parleremo comunque di tre punti. Quindi no, l'ascoltatore ha ragione, è che chiaramente, come ripetiamo da prima che iniziasse il campionato, adesso gli errori sono di meno, ma quando ci sono fanno più rumore. Tutto qua. Questo è chiaro. Non c'è niente contro il Verona nello specifico. Verona ha avuto comunque il merito di mettere in piedi la partita, e il Torino ha avuto il torto di concederli. Certo, la partita dove sei 2-0 assolutamente. No, ma poi non deve diventare un alibi, però questi sono i fatti, la consecutio temporum o temporis, non mi ricordo più il latino. Temporum. Come si dice, temporum è corretta, nel senso che c'è stato il primo gol che era quello che era, e poi il secondo è venuto su rigore, disattenzione del Toro, è chiaro che non devi permettere al Verona di tornare in partita, certo, bla bla. Questo è tutto vero. Ma devo dire che anche Cairo, proprio da noi 2 giorni fa, è stato molto molto civile nelle proteste, nel senso che ha accettato, anzi continua, accettato, nonostante il Torino sia la squadra più sfigata, un po' in linea con, non mi vorranno, i tifosi del Toro, con la sua storia. Che è una storia bellissima, però fatta anche di tanti momenti non esattamente fortunati. Certo, è anche il bello questo della storia del Torino, cioè la poesia che c'è nella poesia della sconfitta, la poesia della sfortuna, è una cosa che secondo me è molto affascinante. Dario, buongiorno. Dario? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, dica. Io mi ricollego al concetto di Piqué, sì, dicendo che dal mio punto di vista lo sport e soprattutto lo sportivo oggi si esalta nel momento in cui rappresenta un simbolo, e in tante occasioni si è visto questo. E secondo me Piqué poteva avere l'occasione di rappresentare veramente quello che stava esprimendo, cioè un ideale suo, e ha perso l'occasione. Io sono d'accordissimo, parola per parola. Non è finita la vita, va avanti. Sono giorni convulsi, magari a questa decisione Piqué ci arriverà. Bisogna vedere che evoluzione ci sarà. Cioè io non sono d'accordo in assoluto, nel senso che anch'io, cioè il sillogismo è semplicissimo, dici che non se sei indipendentista che ci giochi a fare con quelli da cui te ne vuoi andare, cioè un discorso così lo capisci un bambino di 2 anni, no? E quindi è giusto, poi perdi il follower a prescindere. Poi perdi il follower. No, ma non è questo, ragazzi. Beh, ma l'ha detto lui, cioè, non è che ce lo stiamo inventando, ha detto molte cose. Secondo me ha ragione l'ascoltatore, ha perso un'occasione. Per essere coerente, perché apprezziamo il calciatore, il giocatore. I calciatori che fanno 0-0 sono altri. Guarda, io non sono so che nessuno di noi può capire le situazioni, perché io non sono catalano, ma tendenzialmente non sono indipendentista, nel senso che mi sembra dal mio punto di vista, di uno non ci capisce niente, mi sembra un errore, quindi figurati se mi metto a dire questo. Però secondo me è un calciatore che esprime un'idea sentimentale, politica, culturale, comunque già abbastanza una rarità. Quindi dire a Piqué che lui ha fatto un calcolo ed è no. I giocatori che fanno i calcoli, che fanno 0-0, scusate, ma sono proprio altri. Piqué è uno che invece ci ha messo la faccia. Sì, ci ha messo la faccia. Sono anni però che si becca fischi negli stadi. Sì, ma per carità, però a questo punto, in questo particolare momento, secondo me vai fino in fondo. Senti Pier, faccio sempre il notaio, voltiamo pagina, cioè il Beck, Evaristo Beccarossi già in linea, però vi faccio sentire prima una cosa che ci introduce sull'argomento nazionale, poi andiamo anche su quello Inter. Anzi, non vedo l'ora di giocarli. Vogliamo vincere sicuramente tutte e due le partite. Sappiamo che è difficile. Andiamo in Albania, che non è semplice per nessuno. E poi giochiamo contro una squadra che all'andata la Macedonia ci ha messo in grande difficoltà. Quindi dobbiamo essere pronti e concentrati. La nostra volontà è quella di andare al mondiale, la cosa che tutti quanti ci teniamo in maniera proprio esagerata, quindi non andarci sarebbe, come hanno detto tutti, una catastrofe. C'è un'aria di positività, c'è un'aria di voglia di rivincita, no? Tra virgolette, perché andare al mondiale, io non l'ho mai fatto personalmente, e quanto ci vorrei andare al mondiale. Perciò credo e spero e voglio che ci sia un gruppo forte, determinato e voglioso di fare un qualcosa di importante dopo Russia 2018, come è questo gruppo. Allora, introduzione della gara della nazionale domani a Torino in casa Toro contro la Macedonia. Abbiamo sentito Immobile, Parolo e Bernardeschi. Adesso sentiamo Evaristo Beccarossi. Ciao Beck. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, dimmi. Belle parole, no? Però, cioè, non credo, insomma, togli credo. Bisogna andare al mondiale. Nel senso che l'Italia non può assolutamente permettersi di non... C'erano due strade, qualificazione diretta, ma tutti sanno il valore della Spagna, e quindi non riesci ad andare direttamente, ci vai con i playoff. per i playoff, quindi sì, tante le chiacchiere stanno e anche io mi allineo al catastrofismo usato a parole dal presidente federale e dallo stesso Ventura. Ma attorno anche, scusa se interrompo, ma anche attorno vedo tanta negatività. Chiaramente non è un bellissimo momento per tanti motivi, però l'Italia ci ha abituato che nei momenti di grande difficoltà, cioè, abbiamo fatto grandissimi risultati, quindi la caratteristica dell'italiano, dei giocatori italiani, è che nelle difficoltà oppure nelle critiche ha sempre tirato fuori il meglio. Pierluigi? No, ma siamo aspetta, cambio impugnatura di telefono, che De Luca mi ha detto non si sentiva più bene. No, siamo in una condizione sospesa. Cioè, prima di Spagna-Italia eravamo sufficientemente ottimisti perché il cammino era stato buono. Spagna-Italia ci ha riportato al punto di partenza, ma il punto di partenza e l'anomalia sta nel fatto che c'è un girone con Spagna e Italia insieme. Arrivare secondi dietro la Spagna in un girone non è una cosa da vergognarsi, è un risultato abbastanza logico, quindi dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti e secondo me poi tutto passerà per le due partite di playoff. Se sbagli i playoff meriti di non andare ai mondiali, il sport è anche giusto. Tutta vecchio, se non andiamo al mondiale è una tragedia sportiva. Questo è vero, e questo è vero, è innegabile. Se andiamo al mondiale abbiamo fatto il nostro, perché siamo arrivati secondi, in un giro in cui non c'era la Svezia. Ma poi conta il risultato, Pierluigi. L'importante è andare ai mondiali. Se non andiamo ai mondiali, catastrofe, tragedia, ovviamente sportiva. E si riparte da 0-0. E si riparte da 0-0. Poi come ci sei arrivato non è così importante. Beck invece, c'è chi sta pensando peggio di noi, perché nonostante Messi e la compagnia dei fenomeni, l'Argentina gioca all'1:30 ora italiana questa notte contro il Perù in casa, nello stadio più bello che c'è al mondo. Io sto parlando per domo mia. Cioè la Bombonera, casa del Boca Juniors contro il Perù, deve vincere a tutti i costi. Icardi e Dybala in panca. Dybala non è compatibile con Messi, Icardi lo vediamo un'altra volta. Chi è l'allenatore lì? C'è uno che si permette di Icardi a casa, Icardi e Dybala che probabilmente non partono titolare, insomma, mi sembra che sicuramente in compenso gioca il Papu Gomez. La situazione sotto controllo più di noi, però mi sembra che siano due giocatori, insomma, che qualsiasi squadra in qualsiasi nazionale giocherebbero. Quindi mi lascia un po' sorpreso. Tu cosa dici? Intanto gioca il Papu Gomez e poi centravanti non gioca Icardi, non gioca Higuain, ma gioca Benedetto, centravanti del Boca. Sì, bizzarro, no? Quello lì è importante, ho sentito anche quella. Però, come quando piove che uno è tecnicamente magari sul campo pesante non gioca e poi magari per sbaglio fa due gol. Io mi ricordo sempre i due gol nel derby che hai fatto sul campo pesante qualche anno fa. Era casuale. No, Pardo, bizzarro. Vabbè, Papu Gomez, gran giocatore, sta simpatico a tutti. No, però l'ultima mezz'ora del Papu dell'altro giorno io lo porterei alla finale dei mondiali. No, ma aspetta, di che parliamo? Cioè, il discorso che facevamo sull'Italia un minuto fa, se poi lo... Ragazzi, ma tu lasci fuori in Italia Dybala, Icardi e Higuain? No, ma infatti, che ti devo dire? Mi sembra una follia. Però è la dimostrazione del fatto che anche i nazionali, che hanno sicuramente più talento di noi, stanno lì, che lottano per arrivare al Mondiale. E se ci arriveranno, nel momento in cui ci arrivano, diventano automaticamente delle favorite del Mondiale. Quindi bisogna far passare la nuttata, come dicono a Napoli, giustamente. E sulla scelta, sì, lascia perplessi, sono d'accordo con te. Coraggio da Leone, ci vuole un coraggio. Però io credo, se posso inserire un altro, credo che sia tutti la ricerca di grandi giocatori e di... Poi dopo sento parlare squadra corta, equilibrio, sicuramente è importante nel calcio di oggi. Però se tu hai giocatori bravi e vuoi fare l'allenatore, devi essere all'altezza di far giocare tutti quelli bravi insieme, punto. Sì, poi si dice però che Dybala con Messi è incompatibile, magari Messi dice no, io quello lì non lo voglio perché mi fa ombra. Sai anche tu come sono queste dinamiche, no Beck? Sì, poi sono tutte chiacchiere, ma se tu hai carisma e personalità li prendi tutti e due e ti trovi la situazione positiva in campo. È chiaro. Allora ragazzi, traffico un attimo, poi voglio sentire la tua sull'Inter, Beck. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta convocati. Allora, intanto mi ha raggiunto Dario Ricci, che già saluto. Ciao Dario. Ciao Carlo. Con cui tra poco affronteremo un altro discorso, però volevo chiudere il discorso con Evaristo Beccalossi sull'Inter, andandoli a bomba. Ci abbiamo girato intorno passeggiando tra le nazionali e... Beh, perché l'Inter non piace a nessuno? Guarda la classifica, pare alla Juve. Ho visto anche domenica Benevento, ho visto un tiro di schioppo della vetta. Sicuramente devi migliorare ancora, però questo inizio secondo me è eccezionale per la situazione che c'era in partenza dopo un'annata, ti ripeto, negativa. Spalletti è riuscito a dare un'impronta, un'identità, a far capire ai giocatori cosa vuol dire appunto cercare di raggiungere un obiettivo importante. Chiaro che a questo punto c'è un po' il rammarico che con un giocatore o due di grande qualità la squadra è pronta ad andare a battagliare per risultati importanti. Sì, cioè, mi sembra chiaro questo, no? Ma anche sai a chi è che non piace l'Inter? A sono chi? dei cani, purtroppo non la band di Nicolò Contessa, sono proprio dei cani. E l'Inter non piace agli avversari, perché è una squadra che fa 6 vittorie e un pareggio nelle prime 7 partite, sta antipatica agli avversari. No, il resto è fuffa, il resto sono no, però non piace e neanche poi... tanto ai suoi tifosi, almeno ma per... Sì, perché è ovvio. Spiegatemi perché. Spiegatemi perché. Il gioco non è quella del Napoli, non è nemmeno quella della Juve, d'accordo, e non è nemmeno quella della Roma. D'accordo, va bene. Detto questo, guarda la classifica. 6 vittorie, un pareggio all'inizio di un percorso con un nuovo allenatore, senza coppe, mi sembra un inizio molto, molto interessante e molto promettente. Anche a me, però, io chiedo al Beck per chiudere, dato che conosce così bene proprio il nerazzurro di cui è stato idolo totale, mondiale, perché agli interisti o a molti interisti questa squadra non piace e sono anche ipercritici? Ma sì, ma magari c'è con qualcosa in più, però in questi primi mesi io personalmente non mi aspettavo una partenza così positiva, perché poi il risultato ti porta ad avere un entusiasmo diverso, quindi il gruppo adesso tra l'altro ha recuperato anche un giocatore come Brozovic che fino a 15 giorni fa sembrava perso. Chiaro che poi dopo a gennaio secondo me la società un paio di inserimenti di qualità, perché sì, forse manca creatività, spacca un po' le partite con qualità tecniche, però io non cioè, sono contento, perché anche a Benevento non è stata una passeggiata, perché a Benevento ci ha creato anche dei problemi, però alla fine hai portato a casa il risultato, quindi quella è la mentalità che ha dato l'allenatore. Poi dopo migliorare sicuramente devi certo, questo è evidente. Grazie Beck. Ciao, saluto anche il mio amico Pardo, perché deve tenere a bada i cani che abbiamo sentito prima, di cui abbiamo sentito prima la voce. No, quelli stavo attraversando la strada, lunga vita ai cani, ci mancherebbe altro. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi. Io chiudo il programma con il mio amico Dario Ricci invece, che ci parla di, anzi gli faccio innanzitutto i complimenti per l'Olimpia e poi ci parla di qualcosa di molto interessante che riguarda quello che facciamo tutti i giorni, lo sport alla radio. Sì, la cultura sportiva, tra l'altro Overtime Festival di Macerata da ieri fino a domenica, questo festival della cultura sportiva che per la prima volta ospita quest'anno la 6ª edizione, la prima edizione del premio dedicato proprio alla radio e allo sport. Era ora, qualcuno si accorgesse di noi. Ecco, infatti, allora gli amici di Overtime Festival a Macerata hanno indetto questo premio. Olimpia ha vinto per la sezione dello storytelling sportivo con una puntata dedicata a Ondi Navalla, e quindi come tutti i premi che vinciamo sono successi di squadra, Carlo, ma insomma quello che vi invito a fare è vedere un po' sul sito di overtimefestival.it tutto il programma. Vi aspettiamo a Macerata, tra l'altro ci sarà pure Pierluigi Pardo con cui parleremo un po' di vino, sport, presenteremo anche molti campioni, verranno a presentare i loro vini, Francesco Moser, gli amici di Ripa Teatina col vino Rocky Marciano, poi c'è Ivan Ramiro Cordoba, Clemente Russo, insomma una grande festa dello sport raccontato come piace a noi. Saltrano, vieni anche te con Giorgio De Luca, volentieri. Gianmarco Ferronato, e magari facciamo una puntata da là. Ma volentieri, siamo. Non prendo impegni. Preparati a prendere un chilo in 2 giorni, perché là, insomma, si mangia bene. Sì, okay. Io vado a correre la mattina presto, mentre tu dormi. T'aspetto a tavola. E di che parlate? Calcio, sport, vino? E cultura sportiva, presentazione di libri, ci sarà anche l'alpinista Daniele Nardi, modereremo una tavola rotonda sul senso del viaggio, dalla vetta alla via Francigena. Insomma, temi alti per dimenticare cuna delle polemiche da bar che invece riscaldano tutti i pomeriggi di tutti i convocati. Ma polemiche da bar fino a un certo punto, che anche quelle hanno quelle ampio diritto di cittadinanza. Anzi, oggi mi sembra che insomma polemiche da bar neanche poi tanto, perché insomma la storia di Piqué dell'indipendenza catalana secondo me è un gran bel tema. Anche questo meriterebbe approfondimento, il ruolo che lo sport deve giocare nella vita di tutti i giorni, perché non allora signori dobbiamo ricordare che non esistiamo soltanto per dargli quattrini e visibilità followers, social network, TV e bla bla bla. Ah, tra l'altro, a proposito di campioni, questa domenica alle 21 riviviamo Valentino Rossi e l'ultimo miracolo che ha fatto, no? Tornare in pista d'Aragon, va aspetta Olimpia. Ah, grandissimo, grazie a Dario Ricci. Grazie. Dunque a te, noi chiudiamo questa puntata con calma, sì, chiudiamo questa puntata. Tutti i convocati ovviamente torna domani, sarà il professor Capuano, e poi domenica dalle 17 alle 19, perché nonostante la pausa del campionato noi ci siamo sempre sul pezzo. D'altra parte è stata una settimana anche interessante, che ci ha offerto un sacco di spunti di chiacchiere, di cui discutere. Avremo sul piatto anche, ovviamente, già vista, cotta e mangiata, la partita della nazionale a Torino, partita da non sbagliare con la Macedonia. E insomma, tutti questi i temi che ci aspettano da domani e fino al weekend. Io ringrazio Dario Ricci, ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, e tutti voi che ci avete seguito. Ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.